Eravamo tutti in giardino quando risuonarono i due trilli esitanti di campanello. Si sapeva che era Swan. Nondimeno tutti si scambiarono sguardi interrogativi e la nonna fu mandata in ricognizione. Ricordatevi di ringraziarlo per il vino in un modo comprensibile. È delizioso, lo sapete. Ed è una cassa enorme, raccomandò mio nonno alle due cognate. Non cominciate a bisbigliare, disse la prozia. Immaginate che sollievo arrivare in una casa dove tutti parlano sottovoce. Ah, ecco Swan. Domandiamogli se crede che domani farà bel tempo, disse mio padre. Mia madre pensava che una sua parola potesse cancellare tutto il dispiacere che la nostra famiglia doveva avere procurato a Swan dopo il suo matrimonio. Trovò il modo di condurlo un po' in disparte, ma io la seguì. Non sapevo decidermi ad abbandonarla di un passo, pensando che fra poco avrei dovuto lasciarla in sala da pranzo e salire nella mia stanza senza avere, come le altre sere, la consolazione che venisse a darmi un bacio. Allora, Swan, gli disse la mamma, parlatemi un po' di vostra figlia. Sono sicura che ha già il gusto delle cose belle come il suo papà. Ma venite a sedervi con noi sotto la veranda, disse il nonno avvicinandosi. La mamma dovette interrompersi, ma anche da quella costrizione riuscì a trarre un pensiero delicato in più, come un bravo poeta obbligato dalla tirannia della rima a escogitare le sue maggiori bellezze. Ne riparleremo quando saremo soli noi due, disse a Swan abbassando la voce. Solo una mamma è degna di comprendervi. Sono sicura che la sua sarebbe del mio stesso parere. Ci mettemmo tutti a sedere intorno al tavolo di ferro. Avrei voluto non pensare alle ore di angoscia che mi aspettavano quella sera, solo nella mia stanza, senza riuscire a prendere sonno. Cercavo di convincermi che non avevano alcuna importanza, perché l'indomani le avrei dimenticate. Di aggrapparmi a idee di futuro che avrebbero dovuto condurmi come su un ponte al di là dell'abisso imminente che mi terrorizzava. Ma la mia mente, tesa per la preoccupazione, resa convessa come lo sguardo che lanciavo sulla mamma, non si lasciava penetrare da alcuna impressione esterna. I pensieri vi entravano, sì, ma a condizione di escludere ogni elemento di bellezza o anche semplicemente di comicità che potesse commuovermi o distrarmi. Come un malato che grazie a un anestetico assista in piena lucidità a un'operazione eseguita su di lui ma senza sentire nulla, potevo recitarmi dei versi che amavo o osservare gli sforzi che il nonno faceva per parlare a Swan del ducado di Frépaquet senza che i primi mi ispirassero alcuna emozione o i secondi alcuna gioia. Quegli sforzi furono infruttuosi. Non appena il nonno ebbe posto a Swan una domanda relativa a quell'oratore, una delle sorelle della nonna, alle cui orecchie la domanda era risuonata come un silenzio profondo ma intempestivo e che la buona educazione imponeva di infrangere, interpellò l'altra. «Figurati, Céline, ho conosciuto una giovane istitutrice svedese che mi ha raccontato dei particolari incredibilmente interessanti sulle cooperative nei paesi scandinavi». «Bisognerà che venga a cena da noi una sera». «Oh, lo credo bene», ribatté sua sorella Flora, «ma anch'io non ho perso il mio tempo. A causa del signor Van Tey ho conosciuto un vecchio erudito che conosce molto bene l'attore Maubin e al quale Maubin ha spiegato in dettaglio come si costruisce un ruolo drammatico. È incredibilmente interessante». «È un vicino di Van Tey, non ne sapevo nulla ed è molto gentile». «Oh, Van Tey, non è il solo ad avere dei vicini gentili?» esclamò zia Céline con una voce resa stridula dalla timidezza e artificiosa dalla premeditazione, mentre lanciava verso Swan quello che lei chiamava uno sguardo significativo. Intanto zia Flora, che aveva capito che quella frase era il ringraziamento di Céline per il vino d'asti, guardava a sua volta Swan con un'aria mista di congratulazione e di ironia, sia per sottolineare semplicemente la battuta della sorella, sia che invidiasse Swan di avergliela ispirata, o che non potesse fare a meno di burlarsi di lui, ritenendo che fosse sul banco degli accusati. «Non credo che ci sarà difficile avere quel signore a pranzo», continuò Flora. Quando si porta il discorso su Maubin o sulla Materna, parla per ore senza sosta. Deve essere delizioso, sospirò il nonno, nella cui mente la natura aveva sfortunatamente omesso di includere la possibilità di un suo interesse appassionato per le cooperative svedesi o per lo studio dei ruoli di Maubin. Così come aveva dimenticato di dotare le menti delle sorelle della nonna del granello di sale che dobbiamo aggiungere noi stessi per trovare un qualche sapore in un racconto sulla vita intima di Molé o del conte di Parigi. «Ecco», disse Swann a mio nonno, «quello che vi dirò ora ha a che vedere, più di quanto non sembri, con quello che mi avete chiesto, visto che per certi versi le cose non sono poi così cambiate. Rileggevo questa mattina, in Saint-Simon, qualcosa che vi avrebbe divertito. È nel volume sulla sua missione di ambasciatore in Spagna. Non è dei migliori, in sostanza non è che una cronaca, ma almeno una cronaca scritta in uno stile mirabile, il che rappresenta già una prima differenza rispetto ai deprimenti giornali che ci sentiamo obbligati a leggere mattina e sera. Non sono del vostro parere. Certi giorni la lettura dei giornali mi sembra molto piacevole», interruppe zia Flora per far capire che aveva letto nel Figaro la frase sul coro di Swann. «Quando parlano di cose o di persone che ci interessano», incalzò zia Céline. «Non dico di no», rispose Swann sorpreso. «Quello che io rimprovero ai giornali è di attirare la nostra attenzione tutti i giorni su cose insignificanti, mentre leggiamo 3 o 4 volte in tutta la vita i libri dove ci sono le cose essenziali. E poiché ogni mattina strappiamo febbrilmente la fascetta del giornale, allora si dovrebbero invertire le cose e mettere nel giornale, che ne so, i pensieri di Pascal». Pronunciò quelle parole con un tono di enfasi ironica per non avere l'aria pedante. «E invece è in uno di quei volumi col taglio dorato che apriamo solo una volta ogni 10 anni?» aggiunse, manifestando per le cose mondane il disprezzo che ostentano certi uomini di mondo, «che dovremmo leggere che la regina di Grecia è andata a Cannes o che la principessa de Leon ha dato un ballo in costume. Così sarebbe ristabilita la giusta proporzione». Ma pentito di essersi lasciato andare a parlare, seppure in tono leggero, di cose serie? «Ma che bei discorsi stiamo facendo», aggiunsi con ironia. «Non so perché affrontiamo simili vette», e volgendosi verso mio nonno. «Dunque, Saint-Simon racconta che Maulevrier aveva avuto l'audacia di tendere la mano ai suoi figli. E si tratta, sapete, di quel Maulevrier di cui dice: mai altro ho visto in quella spessa bottiglia che malanimo, volgarità e stupidità». «Spesse o no, conosco bottiglie che contengono ben altro», disse vivacemente Flora, che ci teneva a ringraziare Swann a sua volta, perché l'omaggio del vino di Asti era indirizzato ad entrambe. Céline si mise a ridere. Swann, interdetto, riprese: «Non so se per ignoranza o raggiro, scrive Saint-Simon, ha voluto tendere la mano ai miei figli. Me ne avvidi in tempo per impedirglielo». Il nonno si stava già estasiando per quella ignoranza o raggiro, ma la signorina Céline, nella quale il nome di Saint-Simon, un letterato, aveva impedito l'anestesia totale delle facoltà uditive, si stava già indignando. «Come? E voi ammirate un comportamento simile? Ma bene, è bello davvero! Ma che cosa può voler dire? Un uomo non vale forse quanto un altro? Che cosa conta che sia duca o cocchiere, se ha intelligenza e cuore? Ah, aveva proprio un bel modo di educare i figli, il vostro Saint-Simon, se non diceva loro di stringere la mano a tutte le persone oneste. Ma è semplicemente abominevole, e voi avete il coraggio di citarlo». E il nonno, desolato, avvertendo l'impossibilità di fronte a quell'ostruzionismo di riuscire a farsi raccontare da Swann le storie che l'avrebbero divertito, diceva alla mamma sottovoce: «Com'è? Ricordami quel verso che m'hai insegnato e che mi dà tanto conforto in momenti come questi. Ah, sì, sì. Quante virtù, Signore, tu ci fai detestare. Ah, com'è giusto. Con gli occhi io non lasciavo mia madre. Sapevo che una volta a tavola non mi avrebbero permesso di restare per tutta la durata della cena, e per non contrariare mio padre, la mamma non mi avrebbe permesso di baciarla più volte davanti a tutti, come se fossimo stati in camera mia. Così mi ripromettevo in sala da pranzo, quando avrebbero cominciato a mangiare e avrei sentito avvicinarsi il momento, di fare in anticipo di quel bacio, che sarebbe stato così breve e furtivo, tutto quello che ne potevo fare da solo, di scegliere con lo sguardo il punto della guancia che avrei baciato, di preparare il mio pensiero in modo da riuscire, grazie a quel mentale inizio di bacio, a consacrare l'intero minuto accordatomi dalla mamma, a sentire la sua guancia contro le mie labbra, come un pittore che, potendo contare solo su brevi sedute di posa, prepara la tavolozza e fa in anticipo a memoria, in base ai propri appunti, tutto quello di cui può a rigore fare a meno della presenza del modello. Ma ecco che, prima che il pranzo fosse servito, il nonno ebbe l'inconscia ferocia di dire: «Il bambino ha l'aria stanca, dovrebbe andare a letto. Stasera, del resto, si pranza tardi». E mio padre, che non teneva fede ai trattati così scrupolosamente come la nonna e la mamma, disse: «Sì, andiamo, vai a letto». Feci per dare un bacio alla mamma, ma proprio in quell'istante si sentì la campanella della cena. «Ma no, su, lascia stare tua madre. Mi siete già dati la buonanotte abbastanza. Queste manifestazioni sono ridicole. Andiamo, su, sali». E mi toccò andarmene, senza viatico. Mi toccò salire ogni gradino della scala, come dice l'espressione popolare, a malincuore, letteralmente salendo contro il mio cuore, che voleva tornare dalla mamma, perché lei non gli aveva concesso con il suo bacio il permesso di seguirmi. Quella scala detestata, sulla quale mi avviavo sempre con tanta tristezza, emanava un odore di vernice che aveva in qualche modo assorbito, fissato, quella sorta particolare di sofferenza che provavo ogni sera, e la rendeva forse ancor più crudele per la mia sensibilità, perché sotto quella forma olfattiva la mia intelligenza non poteva più prendervi parte. Quando dormiamo e percepiamo un mal di denti, ancora solo come una ragazza che ci sforziamo 200 volte di seguito di tirare fuori dall'acqua, o come un verso di Molière che ci ripetiamo senza posa, è un gran sollievo svegliarci e avvertire che la nostra intelligenza può liberare l'idea del mal di denti da ogni travestimento eroico o cadenzato. Era l'opposto di quel sollievo quello che provavo quando la sofferenza di salire in camera mia penetrava in me in modo infinitamente più rapido, quasi istantaneo, insidioso e brusco al tempo stesso, attraverso l'inalazione, molto più tossica di una penetrazione morale, dell'odore di vernice caratteristico di quella scala. Una volta in camera dovetti bloccare tutte le uscite, chiudere le imposte, scavarmi da solo la mia tomba scompigliando le coperte, indossare il sudario della camicia da notte. Ma prima di seppellirmi nel letto, che era stato aggiunto nella stanza perché d'estate avevo troppo caldo sotto le pesanti cortine del letto grande, ebbi un moto di ribellione. Volli tentare un'astuzia da condannato. Scrissi a mia madre, supplicandola di salire per una cosa grave che non potevo dirle per lettera. Il mio timore era che Françoise, la cuoca della zia, incaricata di occuparsi di me quando ero a Combray, si rifiutasse di consegnare il mio messaggio. Temevo che fare una commissione alla mamma in presenza degli invitati dovesse sembrarle impossibile quanto al portiere di un teatro recapitare una lettera a un attore che è in scena. Circa le cose che si possono o non si possono fare, lei si atteneva a un codice ferreo, circostanziato, sottile e intransigente, in ordine a distinzioni inafferrabili o oziose, cosa che gli conferiva l'apparenza di quelle leggi antiche, le quali, accanto a prescrizioni feroci come il massacro di fanciulli al seno delle madri, proibiscono con delicatezza esagerata di far bollire il capretto nel latte materno o di mangiare il nervo della coscia ad un certo animale, Era un codice che, a giudicare dall'improvvisa ostinazione che mostrava nel rifiutarsi di eseguire certe commissioni che le affidavamo, sembrava aver previsto complessità sociali e ricercatezze mondane che nulla, nell'ambiente di Françoise e nella sua vita di domestica di paese, poteva averle suggerito. E se ne doveva concludere che in lei fosse vivo un passato francese antichissimo, nobile e malinteso, come in quelle città industriali dove qualche vecchio palazzo testimonia che ci fu un tempo una vita di corte, e dove gli operai di una fabbrica di prodotti chimici lavorano in mezzo a pregevoli sculture che rappresentano il miracolo di San Teofilo o i quattro figli di Aimone. Nel caso specifico, l'articolo del codice in base al quale era poco probabile che, salvo il caso di incendio, Françoise andasse a disturbare la mamma in presenza di Swann, per un personaggio di così scarso rilievo come ero io, esprimeva semplicemente il rispetto che lei professava non solo per i parenti, come pure per i morti, i preti e i re, ma anche per il forestiero a cui si offre ospitalità. Rispetto che mi avrebbe forse commosso in un libro, ma che in bocca a lei mi irritava sempre a causa del tono grave e intenerito col quale ne parlava, tanto più quella sera in cui il carattere sacro da lei conferito alla cena aveva per effetto il suo rifiuto di turbarne la cerimonia. Ma per assicurarmi almeno qualche probabilità a mio favore, non esitai a mentire e a dirle che non ero io a voler scrivere alla mamma, ma era stata la mamma che al momento di lasciarmi s'era raccomandata che non mi dimenticassi di farle avere una risposta a proposito di un oggetto che mi aveva pregato di cercare, e si sarebbe molto arrabbiata se non le avessi fatto avere la risposta. Penso che Françoise non mi credette, perché come i primitivi, i cui sensi erano più potenti dei nostri, lei era capace di discernere subito, da segni per noi impercettibili, qualsiasi verità le volessimo nascondere. Per qualche minuto scrutò la busta, come se l'esame della carta e la foggia della grafia potessero offrirle indizi sulla natura del contenuto o indicarle a quale articolo del suo codice dovesse fare riferimento. Poi se ne andò con un'aria rassegnata che sembrava voler dire: «Oh, che disgrazia per dei genitori avere un figlio così!» Tornò, dopo un minuto, a dirmi che erano appena al gelato e che era impossibile per il maggiordomo consegnare la lettera in quel momento davanti a tutti, ma quando avrebbero portato in tavola il Rincebouche avrebbe trovato il modo di farla avere alla mamma. Immediatamente la mia ansia si placò. Adesso non era più come poco prima, quando avevo lasciato la mamma fino all'indomani, perché il mio biglietto, pur facendola senz'altro arrabbiare, e doppiamente perché quel maneggio mi avrebbe reso ridicolo agli occhi di Swann, mi avrebbe almeno permesso di entrare, invisibile ed estasiato, nella stanza dove era lei. Le avrebbe parlato di me all'orecchio, e quella sala da pranzo proibita, ostile, dove ancora un istante prima il gelato stesso, la granita e i Rincebouche mi sembravano racchiudere voluttà malefiche e mortalmente tristi, perché la mamma le gustava lontano da me, mi si apriva come un frutto divenuto maturo che faccia scoppiare il suo involucro. Avrebbe fatto sprizzare, proiettare fino al mio cuore inebriato l'attenzione della mamma nel momento in cui avrebbe letto le mie parole. Adesso non ero più separato da lei. Le barriere erano cadute. Un filo delizioso ci univa. E non era tutto. La mamma sarebbe senza dubbio venuta. Dell'angoscia che avevo provato, immaginavo che Swann se ne sarebbe di sicuro beffato se avesse letto la mia lettera e ne avesse indovinato lo scopo. E invece, come venni a sapere più tardi, una simile angoscia era stata per lunghi anni il tormento della sua vita, e nessuno meglio di lui avrebbe forse potuto comprendermi. A lui, quell'angoscia che si prova sapendo che la persona che si ama si trova in un luogo di piacere dove noi non siamo, dove non possiamo raggiungerla, è l'amore che l'ha fatta conoscere. L'amore cui è in qualche modo predestinata, da cui sarà accaparrata, specializzata, ma quando, come nel mio caso, quell'angoscia è entrata dentro di noi, prima ancora che l'amore abbia fatto la sua comparsa nella nostra vita, allora fluttua nell'attesa, vaga e libera, senza una destinazione precisa, al servizio oggi di un sentimento, domani di un altro, ora della tenerezza filiale, ora dell'amicizia per un compagno. E la gioia di cui feci il mio primo apprendistato, quando Françoise tornò a dirmi che la mia lettera sarebbe stata consegnata. Swann l'aveva conosciuta bene anche lui, quella gioia ingannevole che ci dà un amico, un parente della donna che amiamo, quando, arrivando al palazzo o al teatro dove lei si trova per un ballo, un ricevimento o una prima, dove lui la raggiungerà tra poco, questo amico ci vede vagare all'esterno in disperata attesa di un'occasione qualsiasi per comunicare con lei. Lui ci riconosce, ci si avvicina familiarmente, ci chiede cosa facciamo lì. E siccome inventiamo di avere qualcosa di urgente da dire alla sua parente o amica, lui ci assicura che non c'è niente di più semplice, ci fa entrare nell'atrio e ci promette che ce la manderà fra 5 minuti. Quanto lo amiamo, esattamente come in quel momento io amavo Françoise, quell'intermediario ben intenzionato che con una parola ci ha reso sopportabile, umane, quasi propizia la festa inconcepibile, infernale, in seno alla quale eravamo certi che vortici ostili, perversi e deliziosi trascinassero lontano da noi, facendola ridere di noi, colei che amiamo. A giudicare da lui, dal parente che ci ha avvicinato, e che è anche lui un iniziato di quei crudeli misteri, gli altri invitati della festa non dovrebbero avere niente di così demoniaco. Quelle ore inaccessibili e tormentose, in cui lei andava assaporando piaceri sconosciuti, ecco che, attraverso un varco insperato, anche noi vi penetriamo. Ecco che uno dei momenti della cui successione quelle ore si sarebbero composte, un momento non meno reale degli altri, forse addirittura più importante per noi perché la nostra amante vi è più coinvolta, noi ce lo rappresentiamo, noi lo possediamo, vi interveniamo, l'abbiamo quasi creato. Il momento in cui le diranno che noi siamo lì di sotto. E senza dubbio, gli altri momenti della festa non dovevano essere di una natura così diversa da quello, né dovevano avere niente di più delizioso e tale da farci tanto soffrire, visto che il benevolo amico ci ha detto «Ma sarà felice di scendere, le farà molto più piacere parlare con voi che annoiarsi di sopra». Ahimè, Swann ne aveva fatto l'esperienza. Le buone intenzioni di un terzo non hanno alcun potere su una donna che si irrita sentendosi inseguita anche a una festa da qualcuno che non ama. Spesso l'amico ridiscende solo. La mamma non venne, e senza riguardi per il mio amor proprio, tutto teso a evitare che venisse smentita la storiella della ricerca di cui mi avrebbe pregato di riferirle il risultato, mi fece dire da Françoise nessuna risposta. Parole che poi così spesso ho sentito riferire dai portieri di grandi alberghi o dalla che di case da gioco a qualche povera ragazza che si stupisce. Ma come? Non ha detto niente? Non è possibile? Ma la mia lettera gliel'avete consegnata? Va bene, aspetterò ancora. E mentre assicura invariabilmente di non aver bisogno della lampada supplementare che il portiere vuole accendere per lei, se ne resta là e non sente altro che le poche battute sul tempo che il portiere scambia con un inserviente, al quale, accorgendosi a un tratto dell'ora, ordina di mettere in ghiaccio la bevanda di un cliente. Io, avendo declinato l'offerta di Françoise di farmi una tisana o di restare accanto a me, la lasciai tornare nel tinello. Mi coricai e chiusi gli occhi, cercando di non sentire le voci dei miei che prendevano il caffè in giardino. Ma nel giro di pochi istanti capii che, scrivendo quel biglietto alla mamma, avvicinandomi tanto a lei col rischio di farla arrabbiare, da credere di poter sfiorare il momento di rivederla, Mi ero precluso la possibilità di addormentarmi senza averla rivista, e i battiti del mio cuore divenivano di minuto in minuto più dolorosi, perché io stesso aumentavo la mia agitazione, esortandomi a una calma che equivaleva all'accettazione della mia sventura. D'un tratto la mia ansia svanì. Mi invase una sorta di felicità, come quando un farmaco potente comincia ad agire e ci allevia un dolore. Avevo preso la decisione di non tentare più di addormentarmi senza prima aver rivisto la mamma, di darle un bacio a tutti i costi quando sarebbe salita a coricarsi, benché avessi la certezza che poi sarebbe stata a lungo in collera con me. La calma che era seguita alla fine delle mie angosce mi metteva addosso una straordinaria allegria, non meno che la fine dell'attesa, della sete e della paura del pericolo. Aprì la finestra senza far rumore e mi sedetti ai piedi del letto. Me ne stavo quasi del tutto immobile affinché da giù non mi sentissero. Fuori le cose sembravano anch'esse irrigidite in una muta attenzione a non turbare il chiaro di luna, che raddoppiando e facendo arretrare ogni cosa, investendola del proprio riflesso più denso e concreto della cosa stessa, aveva ridotto insieme e ingrandito il paesaggio, come una carta geografica ripiegata fino a quel momento che venga dispiegata per intero. Ciò che aveva bisogno di muoversi, qualche fronda di castagno, si muoveva, ma il suo fremito minuzioso, totale, eseguito fin nelle minime sfumature e nelle più estreme delicatezze, non sbavava sul resto, né vi si fondeva. Restava circoscritto. Esposti al di sopra di quel silenzio che non ne assorbiva alcuno, i rumori più lontani, quelli che dovevano venire da giardini situati all'altro capo della città, si percepivano in dettaglio con una tale precisione che sembravano dovere quell'effetto di lontananza unicamente al loro pianissimo, come certi motivi in sordina eseguiti così bene dall'orchestra del conservatorio, che, nonostante non se ne perda una sola nota, si ha l'impressione di udirli lontano dalla sala del concerto, e tutti i vecchi abbonati, comprese le sorelle della nonna, quando Swann aveva ceduto loro i suoi posti, tendevano l'orecchio come se stessero ascoltando l'avanzare lontano di un esercito in marcia che non avesse ancora svoltato per Rue de Trevise.